regolare. No, no, no, a sentir gringo di pattugliamento ci si mette lui di corve. Il gringo che va fino in fondo sa che cosa è meglio per te. E il gringo raschia tutto il fango, raschia tutto finché ce n'è. Il gringo quasi quasi spengo, tanto lo sappiamo già. Per le artriti ha avuto un giorno pesante fra nuovi bersagli e tagli ed ex banditi. Il nostro cuore non è da seppellire né a Wounded Knee né nessun altro dove. Il nostro cuore non è da regolare. No, no, no, attende il gringo di pattugliamento, ci si mette lui di corve. Che va fino in fondo sa che cosa è meglio per te. Il gringo raschia tutto il fango, raschia tutto finché c'è. Il gringo quasi quasi spengo, tanto lo sappiamo già. Dico no, no, non è da seppellire. Dico no, no.